Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete sintonizzati sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna di Radio Città Fujiko. Mercoledì ore 10.30 all'incirca, l'orario in cui iniziano due ore di musica dal vivo, una trasmissione denominata Città Fujiko Live Club, che si propone di farvi ascoltare appunto registrazioni live di ogni epoca e di ogni genere. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, quest'oggi una novità molto interessante da parte di una ragazza, chiamiamola così, che è nata in Canada ma è emigrata giovanissima ad Austin, Texas, diventando cittadina di quella città del Texas, scusate il gioco di parole, e è una delle migliori cantanti, chitarriste, songwriter che la scena musicale americana possa offrire in questo momento. Lei si chiama Sue Foley, come dicevo, da tantissimo in giro, e ha fatto ben 16 album come leader, ma ha partecipato a un'infinità di altri album come vocalist, come chitarrista, come produttrice, insomma ha fatto un po' di tantissime cose ed è molto considerata nell'ambiente musicale texano e non solo quello. L'abbiamo vista in concerto al Castel San Pietro in Blues Festival del 2010, è stato un ottimo concerto, è un personaggio di quelli che non si discutono, integrale ai massimi livelli e è veramente molto molto brava. Ha pubblicato un album live, il primo album live della sua carriera, quel che mi risulta, si chiama Live in Austin Volume 1, che prelude naturalmente a un volume 2, 3, 4, 5. Praticamente lei gioca in casa, è stato registrato infatti, come dice il nome stesso, ad Austin, Texas, al Continental Club, ed è recentissimo, perché è del 19 maggio del 2023, quindi pochissimi mesi fa. Che è una cosa abbastanza rara di questi tempi in cui si ripescano registrazioni effettuate magari anche decenni prima. Ha un solo piccolo difetto questo Live in Austin Volume 1, è terribilmente corto, dura 43 minuti, diciamo il tempo di un long plan chiaramente, ma essendo un CD secondo me ci stava dentro anche il volume 2 a questo punto, ma questa è un'opinione personale di uno che non è mai contento della durata musicale delle varie uscite discografiche. Se hai un CD con 80 minuti di disponibilità non vedo perché non farle 79 e mezzo, ma questo, come dicevo, è un discorso molto personale. Ce l'andiamo ad ascoltare questa Sue Foley, come dicevo, cantante e chitarrista, e vi propongo il primo brano dell'album, che si chiama New Used Car, una cosa abbastanza contrastante fra la nuova auto usata. Però quello che volevo farvi ascoltare così a scopo proprio ludico è l'intro, perché è una cosa che non c'è qui in Italia, è questa, una persona che introduca il concerto. Si vedono spesso, si spengono le luci, ok, poi arrivano dentro più o meno velocemente, più o meno mestamente i musicisti, accordano i loro strumenti e cominciano a suonare. Invece magari con un buon intro come quello che ci andiamo ad ascoltare, la serata sarebbe già molto molto più attiva. It's It's a great looking audience in here tonight. Welcome to the legendary Continental Club. This girl came down from Canada many years ago here to Austin, Texas, and she lit it up. And so I want y'all all to give a big warm welcome, a big round of applause. Make yourself heard. You will be on this live record. Ladies and gentlemen, Sue Foley. Si chiama Sue Foley ed è, come ha detto anche colui che ha introdotto il concerto, canadese ma trapiantato ormai ad Austin, Texas, dove è stato registrato questo Live in Austin Volume 1, come dicevo, nel maggio scorso. Il cane fa un album fresco il brano che ci siamo ascoltati, lo ripeto, si chiama New Used Car. Fra l'altro, prima all'italiana ho detto Continental, il club dove è stato registrato, ma avete sentito all'americana, si chiama Continental, una cosa completamente diversa da quello che ho detto io, ma comunque essendo italiano la mia pronuncia appunto è quella che lascia un po' il tempo che trova. Vi dicevo di Austin, che è la capitale del Texas e fa parte degli Stati Uniti dal 27 dicembre del 1839. Adesso vado un po' faccio un po' di lezioncina. È la decima città più popolosa di tutti gli Stati Uniti ed è un grosso centro per quel che riguarda la tecnologia moderna e il business. È un mega agglomerato veramente, veramente imponente, diciamo. È sede di due grandi festival, una città molto musicale, considerata la città americana con più locali musicali pro capite di tutti gli Stati Uniti. Ce ne sono veramente tantissimi, per cui capirete perché molti musicisti poi si trasferiscono ad Austin, Texas, perché appunto lì c'è possibilità di suonare praticamente tutte le sere. E come dicevo, Austin nel suo arco temporale di un anno due grandi festival musicali che sono veramente eccezionali. L'Austin City Limit, che si svolge dal 2002, il South by Southwest, si svolge ormai da tempo notevole anche quello, non so esattamente quanto, ma circa, insomma. Per cui la prima parte della trasmissione che ci andiamo ad ascoltare insieme verterà su registrazioni effettuate nella capitale della Texas. Texas, che fra l'altro ha vinto il campionato di baseball di quest'anno, la Major League Baseball, con i Rangers, e che per la prima volta appunto ha visto la città, cioè i Rangers, i Texas Rangers, aggiudicarsi questo titolo. Ma questo è un altro discorso. Andiamo subito con, guarda caso, non è un caso, una band che si chiama Texas, però loro vengono da Glasgow, in Inghilterra naturalmente, sono attivi dal 1986 e al proprio punto di forza, diciamo, nella cantante che si chiama Charlene Spiteri, che poi ogni tanto blocca la band per accentare la carriera solista, che però non gli ha mai dato grandi soddisfazioni. Hanno fatto un sacco di singoli con canzoni dal vivo, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare, che è un singolo con un brano trainante che si chiama Along With You. A seguire ci sono due brani registrati live, che sono due covers, uno di un classico del Rhythm and Blues di Norman and Whitfield, e questo invece che è un super classico del Velvet Underground, si chiama What Goes On, un classico anche naturalmente nella carriera di Lou Reed. Il tutto da questi Texas, registrati a Lanthorns di Austin il 23 novembre del 1991. The song called What Goes On. because his fancy dress. And they won't if you quite belong it, but he isn't ever on high. Anticipation has a habit to set you up for disappointment and even entertainment. But tonight I'll be some love. Tonight I'll be a rookie share, regardless of what's come before. I wanna see all of the things that we've already seen. I want to see you take the jackpot out of the fruit machine. Put it all back in. You've got to understand that you could never be the pandit, no. And she won't be surprised, and she won't be shocked. When she's pressed the star after she's pressed the lock, and there's verse and chapter sat in her inbox. And all that it says is that you've drank a lot. And you should bear that in mind tonight. Yeah, you should bear that in mind tonight. And you can play a heart out, but a reason it won't block. Oh, you send her after 9 o'clock, huh? Accoppiata britannica, prima i Texas, come dicevo, a discapito del nome, arrivano da Glasgow, naturalmente Scozia, Gran Bretagna, e da Sheffield invece arrivavano questi Arctic Monkeys, che sono uno dei nomi di punta del rock attuale. E qui eravamo nel 2006, una delle loro prime uscite statunitensi, perché è quello che ci siamo ascoltati, che è un brano che si chiama The View from the Afternoon, è stato registrato a Austin, Texas, nel giugno, il 7 giugno per la precisione, del 2006, in un locale che si chiama Stubbs Barbecue, uno di quei locali tipici americani enormi, dove ci sono queste costolette incredibili, bistecche incredibili, e poi da una parte c'è un palco che poi viene usato per i concerti, spesso il venerdì o il sabato sera. Ma arriviamo a gruppi e artisti americani. Per queste registrazioni effettuate ad Austin, Texas, ci sarà solo un musicista che arriva da questa città, ne parleremo dopo la pubblicità. E adesso invece parliamo di una band, ci ascoltiamo anzi una band che arriva da Oklahoma City ed è attiva dal 1983, sempre sotto la guida del cantante chitarrista pazzo che si chiama Wayne Coyne. Sarebbe lunghissimo parlare dei Flaming Lips e delle pazzie che hanno fatto nel corso della loro discografia, ma andiamo invece ad ascoltarci questo pezzo che arriva da un singolo che si chiama She Don't Use Jelly, il tutto registrato a Austin, Texas nell'agosto del 1993, non è dato di sapere esattamente dove e nemmeno esattamente la data. Il brano si chiama Moth in the Inculator e loro sono Flaming Lips.

lost his head. When you broke a young girl's heart and Caesar beat a meal once give to you, the cast of millions part. Ha! Your love is like the sea. Minuti e 02 secondi per questo lunghissimo brano che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Come ha detto lo stesso Joe Ely, che ne è autore e interprete in questo caso, si chiama Letter to LA, una lettera per Los Angeles, ed è inserita in questo splendido album che si chiama Live Dentons, uno dei locali storici di Austin, Texas, che è il fulcro delle registrazioni di questa mattina. E niente, un pezzo che a me piace veramente tantissimo da parte di questo personaggio, che è l'unico texano che ci ascolteremo in questa mattinata. È chitarrista cantante che arriva da Amarillo. Però è cresciuto in quel di Lubbock, sempre però in Texas. Ha iniziato la carriera negli anni 70 e è stato in tour per tutti gli Stati Uniti insieme ai Clash, è diventato molto amico di Joe Strummer e fra l'altro nel suo primo album live c'è un dischetto accluso, un 45 giri, l'album è un 33 naturalmente, quelli grandi, e accluso c'è un 45 piccolo con un paio di brani che appunto lui ha eseguito in tour insieme ai Clash. Il tutto è stato registrato, come vi dicevo, a Lantons, aprile 21 e 22 1989. You did call home. Altro brano lungo, stavolta però sono solo 8 minuti, solo fra virgolette, naturalmente non è una cosa usuale nella radiofonia odierna, ma comunque noi la trasmettiamo lo stesso, noi in senso di Radio Città Fujiko naturalmente, non in senso personale, e d'opera di un personaggio che vedremo domenica prossima proprio qui a Bologna insieme a God Mule, la sua band in assoluto. God Mule e Tedeschi Trucks Band al momento sono le mie due band preferite, e quindi la fibrillazione mia in attesa del concerto di domenica, malgrado io abbia assistito a più di 1200 concerti, questo ve lo assicuro, è documentato, e la fibrillazione, dicevo, è già altissima perché sarà in un teatro, spero, credo di avere composto abbastanza vicino al palco, e God Mule sono assolutamente incredibili. Non so se ci siano ancora biglietti, ma se ce ne sono ancora, correte a cercarli perché ne vale veramente la pena. Lui si chiama Warren Haynes, però spesso si prende delle libertà dai Goth Mule che vi dicevo, e mette insieme la sua Warren Ains Band, che ha pubblicato un album live registrato al Moody Theater di Austin, Texas, concerto che si conclude, e non può essere altrimenti, con la bellissima e sempre grandissima Soulshine Warren Ains Band. Break of day. Thank you, Austin. Thank you. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Si chiama Live in Austin Volume 1, album live di Sue Foley, chitarrista, cantante, produttrice, autrice di origine canadese, ma ormai da tanti anni vivente nella città texana, nella capitale texana. Come dicevo in precedenza, nella prima parte, questo Live in Austin Volume 1 ha un solo difetto, che è troppo corto per quel che mi riguarda, però vedremo i prossimi volumi, se ci saranno, come saranno strutturati. Il brano che ci siamo ascoltati è un brano che si chiama Better ed è stato registrato recentissimamente, dati i tempi, al Continental Club di Austin, Texas, il 19 maggio del 2023. Come sempre però, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose. In questo periodo ci sono veramente decine e decine e decine di cose registrate praticamente tutti i giorni, e quindi il criterio, come sempre, è quello di un brano per ogni decade. E andiamo subito ad iniziare con la grandissima. Se prima con il brano di Joe Ely, si chiama Letter to LA, ho detto che è uno dei miei brani preferiti di sempre, quello che ci andiamo ad ascoltare adesso rientra nella categoria top 10. Chi segue le mie trasmissioni sa, è sempre il mio grande ringraziamento a questo proposito, sa che uno dei miei grandi amori musicali quando ero bimbo, quando ero giovane, sono stati gli Yes. E quindi un brano degli Yes rientra sicuramente sicuramente nei miei top 10, difficile capire quale tutti i giorni, ma anche perché può variare. Comunque oggi è la volta di questo I've Seen Good People Your Move, che ci andiamo ad ascoltare da una cosa un po' particolare. Uscì nel maggio del 2015 un mega cofanetto con 7 doppi CD che racchiudevano 7 concerti fatti nel 1972 negli Stati Uniti da parte di Yes. L'album, anzi il cofanetto, scusate, si chiama Progeny 7 Shows from 72, appunto 7 show dal 1972. È una cosa abbastanza pazzoide, nel senso che gli Yes non erano famosi per le loro grandi improvvisazioni. I sette show sono, non dico identici, ma con pochissime differenze, ma per i pazzi furiosi come me è stato veramente una manna questa di 7 album live. E fra parentesi, alcuni di questi pezzi contenuti in questi 7 shows sono poi stati registrati, sono stati inseriti in quel magnifico album che si chiama Yes Songs. Ma noi rimaniamo a questo e ci andiamo ad ascoltare questa registrazione effettuata al Civic Auditorium di Knoxville, in Tennessee, il 15 novembre del 1972. I've Seen All Good People, Your Move, loro sono Yes. Satisfied, I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you wild. No, no, no. 'Cause it's time and time with your time, and this news is captured for the queen to use. Move me on to any black square. Anytime you want to, but just remember that the goal is for us all to capture all we want. Turn their heads, he stays. stay so satisfied. I'm on my way. She don't give people turn their heads. She stays so satisfied. I'm on my way. She don't give people turn their heads. She stays so satisfied. I'm on my way. Shoot it. Sono ancora attivi dal 1968, Yes, anche se non c'è più nessun membro originale, ma originario, anzi, ma l'unico che ha la più longeva attività all'interno del gruppo è Stevie Howe, il chitarrista, che entrò col secondo album, con il tour relativo al secondo album. Nel secondo album c'è ancora Tony Banks, poi dopo è arrivato Stevie Howe. Sarebbe una trasmissione di 8 ore quella sugli Yes, se me la lasciassero fare, ma stavolta vi grazie, vi dirò solamente che questo I've Seen All Good People Your Move, che è un medley fra due brani, come potete tranquillamente capire, è stato registrato al Civic Auditorium di Knoxville, nel Tennessee, nel 15 novembre del 1972. Gli anni 80 sono stati gli anni migliori per quel che riguarda gli irlandesi U2. Lasciamo stare quelli di adesso, che sono tutta un'altra cosa, ma negli anni 80 sono stati veramente grandiosi e hanno pubblicato un bel po' di cose dal vivo, a cominciare da uno dei primi singoli che conteneva Autocontrol dal vivo, ma questo è un altro discorso. Oggi parleremo di questo Wide Awake in America, un 12 pollici con due brani live e due brani in studio. Uno dei due brani live è un altro brano della mia top 10, si chiama Bad, però purtroppo è stato registrato il 12 novembre, per cui non ve lo posso far ascoltare. Il 15 novembre invece, alla Wembley Arena di Londra, è stato registrato quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, che è un brano che è diventato, anzi sono molti classici degli U2 a dire il vero, ma che appunto negli ultimi decenni, oserei dire, da parte della band è stato veramente messo in disparte, ed è veramente un peccato. Si chiama A Sort of Homecoming, 15 novembre 1984, Wembley Arena di Londra, loro sono U2. Across the fields of morning, lights in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time. And your earth moves beneath your own dream landscape. A Sort of Homecoming, una specie di ritorno a casa, però erano a Londra, non a Dublino, questi U2 che ci siamo ascoltati e che sono stati registrati il 15 novembre del 1984. Un 12 pollici, come dicevo, in vinile, si chiama Wide Awake in America. Alcuni anni dopo sarebbe uscito per il Record Store Day Wide Awake in Europe, abbastanza introvabile, quelle poche copie che si trovano sono prezzi indecenti, oserei dire. Ma comunque, a proposito di Record Store Day, vi ricordo che il 24 prossimo, cioè fra due settimane, ci sarà il Black Friday Record Store Day, con un sacco di belle uscite discografiche che non vi sto a elencare perché prenderebbero veramente tantissimo tempo. Quindi rompete il salvadanaio, andate al bancomat e poi andate a cercare le cose che vi interessano. Potete trovare l'elenco assoluto su un sito che si chiama appunto recordstoreday.com. C'è anche il punto it se vi interessano le cose italiane, e lì ci saranno veramente tutte le uscite per questa giornata, praticamente tutte in vinile. Arriviamo al 1991 con un personaggio che le ragazze amano molto. Si chiama Lenny Kravitz, viene da New York City e il suo primo album Let Love Rule è uscito nel 1989. E il secondo invece, che si chiama Mama Said, è uscito nell'aprile del 1991. Nell'occasione ma il 21esimo anniversario della uscita dell'album, è stato pubblicato in doppio CD, come spesso succede nel secondo dischetto nuovo. Ci sono delle diverse registrazioni dal vivo, fra cui questa che ci andiamo ad ascoltare e che è stata registrata alla Hoy di Rotterdam in Olanda, appunto il 15 novembre del 1991. Il pezzo, uno dei suoi super classici, si chiama Always on the Run, e forse lo dice anche lui. And this is called Always on the Run. Life is a gift, and

E a proposito di Record Store Day, questo doppio vinile è uscito per il Record Store Day del 2012, si chiama Live at Acton Hall. Avrete sicuramente riconosciuto la voce assolutamente riconoscibile e unica di Joe Strummer. Qui naturalmente non era più con i Clash, con i quali è stato dal 76 all'86, ma era insieme ai Mescaleros, la band che lo accompagnava nella sua carriera solista. Record Store Day 2012, solamente 2200 copie di questo doppio vinile, ma in tempi recenti è uscita anche la versione in CD che magari molti di voi preferiranno. Joe Strummer, tutti lo chiamiamo così, ma in realtà si chiamava John Graham Mellon ed è nato ad Ankara, in Turchia, perché suo padre lavorava per l'ufficio estero britannico e è assurdo a fama mondiale e imperitura, come si suol dire, con il Clash, a giusta ragione anche. Questi sono appunto una registrazione effettuata il 15 novembre del 2002 alla Town Hall di Acton, che è un sobborgo della Greater London, e fra l'altro negli ultimi tre pezzi che concludono questo concerto il buon Joe Strummer è accompagnato, diciamo, da Mick Jones, suo ex compagno nei Clash, il tutto appunto registrato nel 2002. Andiamo indietro di qualche mese per un piccolo aneddoto abbastanza così, un po' mi urta parecchio, diciamo, nel senso che al concerto di Bruce Springsteen, sto parlando quello soprattutto di Monza, erano previsti due gruppi, anzi un gruppo e una solista in apertura, entrambi provenienti dall'Australia. La band che mi interessava di più era quella dei Teskey Brothers, che vi ho già fatto ascoltare diverse volte, che ci ascolteremo fra poco, che era appunto la band che mi interessava. Sono arrivato con largo anticipo proprio per vedere i Teskey Brothers, ma a causa la pessima, e ribadisco pessima, con tutte le lettere maiuscole e 45 punti esclamativi dietro, organizzazione della Barley Arts, non sono riuscito a vederli perché ho fatto una fila all'esterno di veramente 2 ore e niente, purtroppo me li sono persi e li vedrò magari un'altra volta, speriamo. E appunto Teskey Brothers sono quelli che concludono Record Today di oggi con una registrazione del 2019, registrazione che è stata effettuata al Forum di Melbourne il 15 novembre del 2019 appunto. Il pezzo che ho scelto per voi di questi due fratelli, John che è il vocalist e cantante, Sam che è ugualmente chitarrista, sono formati nel 2008 a Melbourne. Il pezzo che vi dicevo ho scelto per voi e si chiama Pain in My Heart. Si chiama Live at the Forum, registrato nell'omonimo locale di Melbourne, Australia, che è la città natale di questi Teskey Brothers, che ci hanno fatto ascoltare Pain My Heart, registrato il 15 novembre del 2019, a concludere Recording Today di oggi. Molto velocemente, rimangono pochi secondi, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo quasi tutti i mercoledì, perché mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, anche io ogni tanto ho bisogno di un piccolo tagliando, e quindi ci risentiamo fra 15 giorni. Altre due cose: 24 novembre, Black Friday Record Store Day, assolutamente da non perdere, così come è da non perdere il concerto dei GovMule domenica sera qui a Bologna al Teatro delle Celebrazioni. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio qualche secondo, sarò purtroppo costretto a tagliarli in compagnia di Sue Foley, la novità che vi ho proposto quest'oggi live in Austin Volume 1. Ciao a tutti da Nevio.